Benvenuti a tutti, terza puntata per il best of della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila per l'anno 2017. Continuiamo con la nostra selezione dei migliori momenti di Montevarchinità indagata attraverso la nostra trasmissione. Siamo un po' a... è un nuovo inizio, diciamo, Fumino, per noi, per il volo dell'Aquila, per il Montevarchi, per l'anno nuovo. Insomma, è finito ogni cosa e si riparte. Eh sì, è proprio tutto finito, hai detto proprio bene, è finito l'anno e è finito anche il primo anno del Ti racconto una storia, e che noi stiamo raccogliendo insieme ai nostri fidi registi, fra cui citiamo ovviamente Sergio Martino, dell'allenatore nel pallone, per raccogliere appunto in quattro puntate il meglio del meglio del nostro meglio dell'anno 2017. Detto questo, è tutto finito, ma una cosa sta per iniziare. Vi auguro buon ascolto e buona Befana. Parlando appunto di Piero Braglia, che come allenatore è arrivato anche lui in Serie B, non mi sembra sia arrivato in Serie A, ora non mi viene, ma non credo, diciamo comunque la Serie B sicuramente l'ha vista, ci parli di lui come un grande psicologo, e dalle tue parole mi è sembrato di capire che praticamente lui a 17 anni, per combattere le critiche, ti chiese sostanzialmente di spengere la testa e iniziare a giocare la partita. Tira fuori gli artigli, vai dentro, non ti fregare niente. Quando poi ti sei ritrovato in Serie B, quindi nel calcio professionistico, perché in C a Modena comunque la C l'avevi già fatta a Montevarchi, però in Serie B, nello scalino superiore e a un passo proprio dalla summa del calcio nazionale, questo tipo di insegnamento, spengere la testa e pensare solo a giocare, ti è ancora servito o c'era da fare anche altro? No, c'era da fare altro. Io in particolare, se vogliamo parlare anche della, insomma, dei particolari della mia carriera, non sono stato un buon giocatore da questo punto di vista, perché molti mi accusavano di essere un vero professionista, perché magari avevo questa testa sempre un po' per aria, questa cosa che magari c'è, questo alone di facilità che magari poi in realtà non era così, no? Magari uno si copriva da determinati altri atteggiamenti facendo in questo modo. Diciamo che ho affrettato un po' la carriera io, in quegli anni mi ricordo che feci molto bene a Modena, e a Modena vinsi anche lì, mi ricordo, diverse classifiche di rendimento che i giornali all'epoca facevano, tipo la Gazzetta dello Sport, anche lo stesso stadio, ma mi incontrai subito con un pubblico troppo, troppo forte, perché un conto è giocare a Montevarchi e un conto è giocare a Modena, e Modena ambiva a ritornare in Serie A. Mi ricordo il presidente era Farina, c'era Montezemolo, quindi le pressioni erano tante per un ragazzo che veniva fuori da una realtà come Montevarchi, che comunque l'avevo già vissuta, e quindi ero pronto a poterla affrontare. Infatti ho fatto anche molto bene. Il discorso lì fu che io ebbi un infortunio molto grave a fine stagione. Mi ruppi una spalla e non fu diagnosticato subito il problema, che era serio, e quindi da lì ho cominciato a arrancare. Non ho più portato avanti, ecco, diciamo, in toto tutte le qualità che potevo avere e tutte le ambizioni che potevo aspirare. E immediatamente dopo la rottura della spalla poi sei andato a Genova, oppure poi sei rimasto ancora a Modena? No, io ho preso un po' tempo perché sapevo di non stare bene. Pensavo di stare bene, pensavo di poter continuare senza operazione, quindi stavo lavorando sulla spalla. Discepoli mi portò a Siena, perché Discepoli andò a Siena e fece un contratto triennale con il Siena, e purtroppo, ahimè, anche per lui, che credeva tanto in me, questa spalla non funzionava, e quindi entrai anche in una disputa economica, societaria, di passaggi, di giocatori rotti, e però mi ricordo che insomma poi alla fine venni fuori da questa storia e arrivai ancora dopo, sempre con Discepoli, a Lucca a fare un bellissimo campionato. Da lì passai alla Sampdoria. Questa è una curiosità poi mia personale. Così parla della Sampdoria, vi racconto un po' di voi. No, esatto, proprio lì volevo arrivare, perché uno degli stadi secondo me più belli in Italia è il Ferraris di Genova. E qual è la sensazione che si prova a entrare ai Ferraris prima di una partita? Beh, è uno stadio più bello, forse è uno dei più belli in assoluto, perché i colori, lo stadio è l'unico stadio all'inglese che c'è in Italia forse, e poi la Sampdoria c'è una storia incredibile, un fascino incredibile. entrare lì veramente arrivare al top del top, perché comunque anche se eravamo in Serie B era tutto come se fossimo in Serie A di altissimo livello, insomma non cambia niente lì se si gioca in C o gioca in Serie A, come quando la Fiorentina ci sta in C2, non cambia niente, sempre Serie A, insomma c'è certe squadre rimarranno sempre quello che sono, no? Di conseguenza, Roberta, secondo te i Montevarchini e quindi la Montevarchinità, perché non ce lo dimentichiamo, il Volo dell'Aquila nasce alla ricerca della Montevarchinità, alla ricerca della nostra identità, che poi magari è riconducibile anche all'identità di tanti altri posti, di tante altre persone. Quindi Roberta, Montevarchi, i Montevarchini viaggiano a braccetto con la fede, con il crederci nelle cose oppure no? Se le cose vanno bene, viaggiano a braccetto e ne parlano. Quando le cose vanno, si comincia a criticare. C'è un po' di fuggi. Sì, eppure ce ne siamo accorti allo stadio. Quando va bene, la domenica ci siamo. Se no, tante volte non c'è nemmeno la Bonafè. Quindi nella nostra ricerca della Montevarchinità c'è questo nuovo particolare che si somma. Quando le cose vanno bene, il Montevarchino esulta e si mette in prima fila. Quando le cose vanno male, il Montevarchino fa il gambero, esattamente. Ebbene Massimo, allora, collegandomi proprio a questi racconti che tu ci hai fatto, e alla fine anche di coltelli degli anni 30 per quanto riguarda l'accaparrarsi un calciatore di grande esperienza e di grande capacità, proprio come era Giovanni Busoni, chiedo a Riccardo, che durante la sua ricerca forse mi potrà sollevare dal dubbio di questa curiosità. Busoni, nonostante questa mirabolante carriera, come diceva appunto Massimo, addirittura le preconvocazioni per la nazionale del mondiale del 1934, sceglie nel 1946 di tornare a Montevarchi proprio per chiudere la carriera, cioè proprio per scelta. Questo significa che Busoni era comunque rimasto legato alla nostra comunità. Sì, torna a Montevarchi nel 1946, però oramai è a fine carriera e quindi sicuramente per affetto e per riconoscenza. Però dicevo, Montevarchi, dell'attaccante a Montevarchi, che riporta lui in un'intervista a Elo Bianchi nella Gazzetta dello Sport, il fascicolo, quello che è la colonna portante del libro, quando gli viene chiesto quali sono le folle che lui ha amato di più, quindi i pubblici che lui ha amato di più, cita Livorno e Montevarchi. Questo per dire che Busoni era legatissimo a Montevarchi. Quello che volevo dire è che Busoni a Montevarchi appunto ci porta in prima divisione, poi va via, naturalmente se fosse rimasto saremmo sicuramente andati in Serie B, perché nel 35 arriviamo secondi senza Busoni e quindi se fosse rimasto noi avremmo la B sicura. Però ecco, quello che volevo dire di Busoni per dare un'idea del campione che è stato, alcune statistiche. Nel biennio 33, noi parliamo degli anni 30, che l'Italia è la squadra più forte del pianeta, perché 34 in mondiale, 36 olimpiadi, 38 mondiale, quindi la squadra più forte del pianeta, con i più grandi giocatori del pianeta. Allora, Busoni nel biennio 33-34, allora la statistica dice Borel 60 gol, Borel gioca nella Juventus, che nel biennio 60 gol nella Juve, che è la squadra che ha vinto mi pare 4-5 campionati di fila in quel periodo. Busoni è secondo a 41 gol insieme a Meazza, Schiavo 37, Piola 26. Questo per rendersi conto che Busoni a livello realizzativo era nettamente all'avanguardia, tra i migliori. Se si pensa che Pozzo convoca Arcari, che non giocherà mai nel Mondiale del 34, ma che non fa nemmeno la metà dei gol di Busoni, la dice lunga. Secondo me, come ha detto Massimo nel libro, in cui lì ha giocato molto il fatto che Busoni ha giocato nel Torino, una squadra dell'epoca non eccezionale, e nel Livorno, nel piccolo Livorno, una squadra neopromossa, e non giocava. Se fosse giocato nel Milan, nell'Inter o nella Lazio, lui sarebbe oggi campione del mondo sicuramente del 1934. Quindi per dare i meriti di questo giocatore, che è stato molto sottovalutato, molto ignorato anche dalla critica, però se si va a vedere appunto statistiche e storia non era inferiore sicuramente a nessuno, anzi qualcuno lui gli ha dato veramente da mangiare la polvere. Quindi onore a Busoni. 10 anni sembrano pochi e sembrano tanti, e quelli sono punti di vista. Quanti sono 10 anni secondo te, Giovanni? Dopo 10 anni, se ti guardi indietro, come era Montevarchi quando te ne andasti e come la trovi oggi, che è sostanzialmente molto cambiata anche per noi che ci viviamo? Ma 10 anni fa, quando c'ero io, secondo me c'era più allegria. Sì, Montevarchi strutturalmente è cambiata un po', non tantissimo, però c'era molta più allegria. E ora, bueno, è com'è. E appunto, quando tu abitavi a Montevarchi, per un bel po' di anni hai gestito un bar che era centralissimo a Montevarchi e è stato anche per svariato tempo un bar di riferimento per una certa parte dei certi gruppi di tifoseria organizzata proprio dell'Aquila del Montevarchi. Come ricordi quei tempi in cui si organizzavano i pullman, magari la gente veniva a segnarsi per la trasferta, entrava uno che non vedevi normalmente al tuo bar e dicevi: quello lì viene a segnarsi per la trasferta, ed era così? Sì, nel periodo che era il vecchio Bar Unione, giusto sotto il comune, io ce l'avevo negli anni 94-95, sì, è vero, si organizzava pullman. Se non mi sbaglio erano gli anni che si vinse lo spareggio a Lugo di Romagna, e a parte organizzare pullman, sì, era un punto di ritrovo. La domenica, quando si giocava in casa, se si giocava alle 2:30, all'1 ci si trovava, non tutti, però una parte ci si trovava lì, e si andava tutti insieme allo stadio. Sì, era in un certo senso un punto di riferimento, non come è stato e ancora il Bar di Giglio, niente a che vedere, però per una certa parte dei tifosi sì, era diventato un punto di riferimento. Ora, una cosa che dicevi te precedentemente era relativa al fatto che la squadra del Montevarchi non solo deve rappresentare una squadra calcistica, ma deve anche rappresentare la città. Come te sai, noi ci proponiamo di indagare e di ricercare la cosiddetta montevarchinità anche attraverso l'Aquila Rossoblu, i colori rossoblu della nostra squadra, in questa trasmissione. Quindi ti faccio una domanda piuttosto aperta: se te dovessi definire con un esempio o come vuoi la montevarchinità, anche in luce rispetto a quello che ti hai detto precedentemente, come la descriveresti? La montevarchinità sta all'istante. Secondo me ci si nasce una mente. Questo paese ci si nasce. Poi c'è chi più, chi meno. Ma è un qualcosa che non si insegna, non si può imparare a nessuno. È una cosa più forte di te. È come il sangue ti scorre nelle vene, ci si scorre la montevarchinità. È un'appartenenza e nessuno ti può togliere. Perché ti toglierebbe un pezzetto della tua vita. E quindi, nel senso, il Montevarchi in questo quindi rappresenta esattamente... Anche rappresenta l'apice di questa cosa. Lo sfogo più assoluto. Lo sfogo più assoluto di una persona è sempre Montevarchi nel cuore. Intanto direi, Tiziano, dici allora quale era il tuo ruolo da calciatore? Allora, il mio ruolo è stato sempre... Prima si chiamava ala tornante, nel senso c'era tutta la fascia, non è come ora con il 4-4-2, prima l'esterno di destra o di sinistra era quello che doveva farsi tutta la fascia. Faccio un esempio, sei molto giovane, però i Domenghini, i Causio, anche se Causio già in quell'epoca lì non faceva tutta la fascia, però partiva molto da dietro, sotto il centrocampo. È stato un po' il mio ruolo, è stato l'ala. Poi successivamente, fino ad arrivare alla fine, gli ultimi anni, passando alla zona, mi sono fatto l'esterno di destra o di sinistra, ma dal centrocampo in su. Per tornarvi poi al discorso che dicevamo ho un'immagine bellissima e che reputo che è stato veramente un qualcosa che mi porterò fino alla tomba, perché in quegli anni là non avevamo tante cose fino a 12, 13, 14 anni. Oggi un bambino di 10, 11 anni gli manca di guidare l'aereo, poi io sempre sanno far tutto, veramente cose che io ho imparato minimo 10 anni dopo. E io mettevo le figurine, e mettere le figurine era la cosa che ti dava più gioia, perché giocavi a calcio e poi avevi le figurine, non c'era nient'altro, non c'erano giochi, c'era il flipper, c'era pochissime cose. Al che al 18° anno entro negli spogliatoi e mi trovo di fronte Bruno Beatrice, che è stato capitano storico della Fiorentina in Serie A, è stato capitano a Cesena, ha una vita di Serie A, uno che veramente era da figurina. Al che non mi sembrava vero, pensavo fosse venuto per visionare qui a Montevarchi, invece me lo trovai come compagno. E questa persona poi è morta a 39 anni, mi sembra, Bruno sui 40 anni, per leucemia, che purtroppo sembra causata, ancora tutt'oggi non è stato delineato se è questo, delineato dalle onde radio che gli venivano fatte per curare la pubalgia a Firenze. Questo è un framezzo che vi sto dicendo, quello che era, per tornare al particolare, che è la cosa che ricorderò sempre, che una sera mi disse a fine allenamento, perché gli chiedevo sempre dei consigli di come allenarsi di più, di quello che mi vedeva da migliorare, e una sera mi disse: guarda, facciamo una cosa, vieni con me, ti porto a cena e lì parliamo. E quella è stata per me una gioia immensa che tuttora parlandone ho difficoltà, e perché veramente ho un ricordo fantastico di una persona che aveva un'umiltà incredibile ed è stato un insegnante, un babbo, un amico, un allenatore, veramente una cosa bellissima che augurerei a tanti giovani che si apprestano a giocare nelle prime squadre, perché mi ha dato un insegnamento veramente totale di un ragazzino che si affacciava per le prime volte nei campi più importanti, professionistici, ma che mi ha segnato per il mio futuro negli anni, perché le ho portate dentro di me alla lettera, e sono state delle cose che tuttora oggi le ridico a qualche ragazzo, perché sono state le mie fondamenta a cui gli sarò stato sempre grato, anche se prematuro d'età e poi scomparso. Però veramente Bruno è stato per me un fratello maggiore, un babbo, ripeto, un qualcosa, un amico, non so descrivervi quanto bene ho voluto a questa persona, perché capì quanto era l'interesse vero nei miei confronti. Com'è che si inizia a giocare a calcio a Roma? Com'è che si inizia a giocare a calcio nella capitale e poi magari diventa anche una professione? Beh, sai, adesso le cose sono un po' cambiate rispetto a quando c'ero io. Prima, diciamo, era la strada, la nostra palestra di vita. Altri tempi, bastava avere un pallone, tanti ragazzi magari a giocare ore e ore sulla strada, era quella lì la nostra, diciamo, il nostro allenamento quotidiano. Poi mi scoprì un famoso direttore sportivo, che anche oggi fa il direttore sportivo in Serie B a Venezia, Giorgio Pellitti. E da lì mi cominciai tutta quanta la trafila con le giovanili, fino a che poi andai in una società di Serie D, semiprofessionista, a Velletri. E dopo, incontrando con il Velletri, incontrando anche questo girone qui in Toscana, incontrai, mi ricordo, l'allenatore Caroni, si ricordava di me, e poi insomma alla fine venni qui a Montevarchi e come vedete ci sono rimasto. Esatto, perché anche te, come altri calciatori che sono passati da Montevarchi, in un modo o in un altro ci sei rimasto, principalmente per una questione affettiva, e ti sei stanziato qui. Certo, come disse il vecchio Monciani, grandissima persona del Montevarchi che fu, sì, sono stato qui, sono prima fidanzato e poi sposato e vivo tuttora con mia moglie Franca, ho due figli, quindi ormai sono integrato in questa Montevarchi. Quindi anche in quegli anni a Montevarchi era una condizione migliore rispetto ai paesi intorno, anche a quei paesi che pensano di essere grandi. Ma chi giocava a quel tempo? La gente veniva da Castelnuovo, da Ponticino in bicicletta per venire a vedere il Montevarchi, ma chi giocava? Non giocava nessuno, c'era il Montevarchi, l'Arezzo. Ci fu un periodo nel San Giovanni era nel nostro girone. Non era nel nostro girone? Ragazzi, voi fate. Che ora c'ho anche il gatto, tutti con la scuola calcio, ora Madonna, le partite del Maradona, ma insomma lasciamoli perdere, va bene? Quindi negli anni 50 e negli anni a seguire, in Val d'Arno comunque, in questa zona di mondo

che tutti i giorni parlavano di calcio, no? Giornali locali, Tirreno, La Nazione, più qualche altro, cioè più i giornali sportivi. Quindi eri continuamente sotto tiro, no? Ti andavano a spulciare su tutto. E dicevano, no, ma Vincino non è in forma, non andrebbe fatto giocare, questo deve giocare questo, allora facciamo informazioni. E durante il ritiro, l'ultimo giorno di ritiro, eravamo in ritiro a Tirrenia, e si sta facendo il riscaldamento, io ero in testa al riscaldamento. A un certo punto del riscaldamento il nostro capitano, allora era Di Prete, si ferma e gli fa a mister Seghedoni, mister, gli dica a Bencini se gioca o non gioca domenica, perché se non gioca si mette l'anima in pace e ci si riposa. Così non è più possibile. E lì, se appena inizia il riscaldamento, va a 200. E così, capito? Poi giocai, fu anche uno dei migliori in campo. In realtà però poi arrivano i fatidici 90 minuti. Com'è che vivi e come hai vissuto in questi anni il momento del fischio d'inizio e il momento del fischio finale? Nel venire nell'andare alle partite in Montevarchi sono cambiato negli anni, perché prima si diceva le prime partite con il nonno in gradinata, gli occhi di un bambino. Poi qualche partita vista dal campo come raccattapalle insieme a ragazzi che giocavano nel Montevarchi mi portavano con loro. Io già ero un giocatore, volevo diventare un giocatore di basket, con il calcio non ci ho mai capito niente, però ero affascinato dai Montevarchi e grazie a loro andavo in campo. Ho dei ricordi bellissimi di partite di C1 straordinarie viste come raccattapalle. Poi arriva la curva e diventi tifoso, stai lì su quei gradoni, ti vedi i ragazzi più grandi come Riccardo, avete avuto lì, che ti lanciano cori, e sei affascinato a questo mondo. Poi cresci, continui a stare su quei gradoni, sventoli le bandiere, fai tutte le trasferte, cresci come ultras, cresci come tifoso in Montevarchi, diventi uomo. Alla fine questa crescita, come io l'ho definito per me la realizzazione di un sogno, dagli spalti sono passato non so per quale motivo alla balaustra, diventando uno dei cardini, dei protagonisti di quello è il tifo, insomma. Anche negli ultimi anni addirittura a lanciare proprio cori, vedevo i lanciacori da bambino e oggi sono diventato in alcuni momenti della partita il lanciacori della curva. Come vivo la partita? Forse quando non stavo in balaustra la vivevo più con gli occhi di tifoso appassionato di calcio, perché comunque è uno sport che a me piace, ho visto migliaia di partite nella mia vita, è uno sport che piace, quindi la vivevo in maniera più attiva. Da quando ho cominciato ad avere questo ruolo per quanto riguarda proprio il fare il tifo e nell'incitamento dei cori, e lì probabilmente si guarda meno la partita e si pensa di più a quello che è l'incitamento della curva. E probabilmente mi accorgo oggi, però è comunque la bellezza anche del nostro mondo. Ecco, la partita sì, può essere bella, ci possono essere gol, azioni stupende, però noi siamo lì su quei garoni, siamo in curva sud per l'aggregazione, per stare tutti insieme e per cercare di dare il massimo sostegno ai Montevarchi. Ecco, è bello oggi ritrovarsi lì e insieme a altre persone cercare di far sì che questo sostegno per 90 minuti non manchi mai. Arriva il 90esimo, tu mi hai detto, le domande mi faccio, naturalmente se il Montevarchi vince sono contentissimo e le ore dopo sono la persona più felice del mondo. Se il Montevarchi ha perso o pareggiato, il mio animo comincia un po' a soffrire, quindi non sono del tutto contento. E poi mi faccio naturalmente le domande su quella che può essere stata la prestazione della curva a livello di tifo, a livello canoro, a livello di colore, domande che magari quando ero un tifoso, avevo 16-17 anni, non mi facevo, ma ero più uno dei tanti ragazzi che animava la curva. Ecco, questa è stata la mia metamorfosi dall'essere piccolo all'essere diventato oggi uomo. 2002 quello che per molti a Montevarchi e forse anche un po' fuori che Montevarchi è stato il derby con la Fiorenza Verona. Ma nella tua lunga militanza in curva di derby ne avrei visti tanti, anche perché non solo con i paesetti proprio intorno, ma in generale con le squadre toscane. Sono state partite di campanile, perché alla fine la Toscana è terra di campanile, e quindi sfidarsi, incontrarsi contro le squadre toscane tira comunque aria di derby. La partita, secondo me, che mi rimane in mente e fu l'88 ai Brilliperi o la Rarese. Lì inizia a capire cosa voleva dire il derby. Loro logicamente venivano a Montevarchi e vinsero il campionato, e noi ci toccò andare a fare lo spareggio a Empoli e Massese. Logicamente il campanilismo in Toscana è il sale del calcio, che cioè è bello. Logicamente noi in Toscana sa solamente un'amicizia con l'Empolesi, con Empoli, e siamo orgogliosi di tutto ciò. Poi nell'esterno Carrara, Massa, abbiamo avuto delle discussioni a Ponzacco, ti dico, per dirti, capito, Ponzacco, Prato, che è una delle tante dove abbiamo, insomma, avuto tante discussioni. Prato, avendo questa età, cioè, noi non abbiamo vissuto dei derby di cui altri parlano, cioè, noi abbiamo vissuto i derby con l'Arezzo. Per noi il derby principale è con l'Arezzo, anche se loro dicono e noi non siamo al loro livello, però insomma spesso e volentieri se lo ricordano il livello e stanno anche abbastanza zitti. E il bello del calcio, perché cioè andare quando si andava a Carrara, si arrivava a Carrara e saliva, insomma l'adrenalina saliva addosso, è una cosa che ti dà il più, che nell'ultimo anno logicamente l'adrenalina addosso, si andava allo stadio a vedere salute, tu l'avevi, perché mettiasi il prossimo anno ci mettono un gironcino dove c'è Viareggio, Massese, tutti quell'altri, incomincia la domenica a sentire un po' di adrenalina nei bracci, vedi, c'è una tifoseria, vedo che cosa, insomma c'è un po' di sfottò, è un po' più accesa, perché il derby in se stesso in Toscana è una cosa secondo me basilare, perché secondo me il calcio in Toscana è tanta roba di fronte agli altri posti, secondo me, perché non soltanto come dice a Montevarchi che è tramandata di padre e figlio, ma anche negli altri posti è perché il campanile vuole che la città deve essere più forte di quell'altra, e allora spesso persone si prendono, si accollano anche alla squadra. Si vive come una responsabilità rispetto alla città, in un certo senso, anche perché comunque le radici del campanilismo sono probabilmente da un punto di vista storico molto più indietro rispetto anche alla nascita di gioco di pallone o qualcosa di simile. In ogni modo, però, dicevamo, rispetto a tutti i vari derby, avevi iniziato facendo riferimento a uno in particolare, e qual è che ti ricordi meglio? La partita la Carrarese in casa, e era una specie di spareggio per noi, perché dovevamo vincere, perché poi alla fine vincemmo lo spareggio a Empoli contro la Massese, che lì si era 2000 noi e 10.000 Massesi. Mi ricordo che quando facevi massa era tutto lo stadio, però alla fine si vinse i rigori con il palo di Garfagnini. Io ero il mio babbo, la mia mamma e la mia zia, anche lì avevo 15 anni, logicamente, perché io ho passato un periodo in cui la mia passione doveva essere fatta sfogare, perché io gli rompevo tanto le scatole per non dire che cos'altro. Allora o una domenica mi mandavano il nonno indietro, o una domenica il babbo o la mamma, perché io ho un ricordo di Pontedera che sarà 4-500 con la 112 dell'Otto Bianchi crema, io dietro con una bandiera fuori dal finestrino, con i finestrini lesa prima di parte, con il babbo e la mia mamma, poi un altro Arezzo con mio zio, cioè in quei tempi lì che ero un ragazzetto, non si fidavano a mandarmi da solo, mi mandavano insieme ai parenti, mi mandavano. Io ho iniziato dall'anni a fine anni 80 con un gruppettino, poi su ho ricambiato gruppo, poi alla fine eravamo tanti, ci siamo uniti tutti insieme, e lì ci fu una scintilla che ci unì tanti insieme, e ora siamo diventati fratelli, insomma, l'uno e l'altro. E quale pensi sia stata la partita più indimenticabile che ti hai commentato? Io ho un periodo indimenticabile, che sono 10 giorni, che sono quelli a cavallo fra la partita con il San Donà e Lugo, e 10 giorni perché giovedì avevo perso la mamma, giovedì prima della partita decisiva in casa con il San Donà, era morta mia mamma, era malata, e ricordo la radiocronaca, tutte e due le radiocronache le feci fare a Mauro Turelli.

con la prima squadra ho fatto 4 campionati di prima squadra a Montevarchi, 2 di C e 2 di D, come era una volta la D importante. Poi sono andato via, il Montevarchi diciamo mi ha ceduto al Savona e ho fatto un percorso di 5 anni sempre a livello di Serie C. Sono stato a Savona, poi in Sicilia ad Alcamo, 2 anni ad Avezzano sempre di Serie C e poi a Città di Castello. Quindi dopo questi anni che ho peregrinato per l'Italia ho sempre fatto come mia attività, come ho fatto il giocatore in poche parole per 14 anni della mia vita sicuramente. Poi dopo questi 5 anni sono ritornato a Montevarchi, anche lì successe che mi chiesero se volevo, sarei ritornato volentieri a Montevarchi, per me fu una grande gioia. Rinunciai allora che ero a Avezzano alla Serie C pur di ritornare a Montevarchi, che era l'anno che il Montevarchi era retrocesso dalla Serie C, era tornato in Serie D, e io però fu ben felice di ritornare a Montevarchi, ecco. Beh, Amerigo, allora parlavamo precedentemente in serie di presentazione, sono stati fatti alcuni nomi, si è parlato di Lezio Losi, si è parlato di Vasco Farolfi, si è parlato di quegli anni in cui te correvi con l'Aquila e loro erano già dentro la società sportiva, anzi erano diciamo ai vertici. Raccontaci qualcosa di loro, qualcosa di te, di quegli anni. Beh, sa, ce ne sarebbe di cose da raccontare, a ricordarle però è un po' difficile. Io mi ricordo una cosa. Poi Farolfi e Losi siamo andati a fare una gara a San Benedetto di Tronto, ora mi sembra sia sì, San Benedetto, era valevole per le selezioni mondiali. Siamo andati io e Tognacini. Allora a un certo momento siamo rimasti io e Tognacini soli. Siccome ci sapeva il commissario tecnico della nazionale dei dilettanti, che probabilmente non era simpatico di noi a lui, sa cosa ha fatto? Ci ha riportato i candidati suoi sulle ruote con la moto, lui. Poi sono arrivato primo io e sono di Tognacini. E beh, la fregatura mi si è data. Però la fregatura ce l'hanno data a noi perché non ci hanno mai chiamato. Perché poi io ho vinto 2 selezioni, che le dovevano essere 5, e quell'altra 3 mi ha detto non ti chiamo te perché. Poi un'altra cosa, ai Ciolli gliene fecero anche a lui. Nel 49 era campione italiano, non lo chiamarono neanche lui. Purtroppo in quell'epoca lì io ero troppo, ero un ragazzo e io le vedevo tutte belle le cose, infatti ho smesso di correre in bicicletta perché mi sono accorto che non era l'ambiente per me. In quel periodo lì, quando io passavo a professionista, mi resi conto che non ci stavo bene in quell'ambiente. E poi vi dirò di più, quando ho smesso di correre sono stato 5 anni senza guardare né un ordine d'arrivo né una gara. Poi ti hai smesso di correre relativamente giovane, mi pare, a 25 anni. Nemmeno 25 anni avevo. Non avevo neanche 25 anni. Poi dopo ho ripreso una bicicletta, mi sono tornato in bicicletta, ho fatto le gare ciclamatori. Sono stato campione italiano di ciclamatori. Però in quel periodo lì proprio per me il ciclismo diventò tabù. Dunque, Amerigo, se ho capito bene, il passaggio dai dilettanti al professionismo ti ha segnato particolarmente. Però diciamo, per tornare al discorso del CS Aquila, tu arrivi al CS Aquila al culmine della tua carriera da dilettante, più o meno. Eri già stato a Firenze, eri già stato in altre, a Incisa, in altre situazioni che via via nel passare degli anni aumentavano di importanza. Questo ti può far affermare che la CS Aquila era comunque un'importante società dilettantistica, oppure è stato un caso? No, non è stato un caso, perché allora probabilmente le squadre più in voga, diciamo in voga, e allora erano l'Aquila e Montevarchi, la San Giovanese e l'Assi di Firenze. Assi di Firenze, dove tu sei stato? E lo Strano, che c'era i Nencini, vorrei avere lo Strano. Però la nostra probabilmente era una delle squadre più forti che c'era in Toscana, non in Toscana, ma anche in Italia. Con, come abbiamo detto prima, la presidenza Vasco Farolfi e direttore sportivo Lezio Losi, giusto? Sì. Quindi fu Lezio Losi che in qualche modo ti invitò a far parte del CS Aquila? Lezio era praticamente rifattoso dell'Aquila ciclismo. Allora Lezio era proprio, poi era un passionista vero per il ciclismo. Lezio, dirò di più, sono una squadra di amici, cominciare da Lezio, Farorti, noi corridori, era una squadra che si stava bene insieme. È durata per non so quanti anni, raccontacela un po', perché comunque è stato secondo me uno scalino importante per alzare il livello di coinvolgimento e partecipazione dei giovani ultras, chiamiamoli così, come me, che iniziavano a venire allo stadio, rispetto anche a voi, avevate un'altra esperienza e un altro bagaglio, diciamo, culturale precedente. Sì, ma infatti credo che tu abbia colto la ragione e il senso della fanzine. La fanzine che si chiamava Meninos de Rua, ragazzi di strada, un po' come eravamo noi al tempo, dei ragazzi che vivevano la strada e la vita di tutti i giorni un po' così, con spensieratezza, anche lo stadio con una certa spensieratezza e semplicità e umiltà. Fu un'idea mia e di Filippo, un altro ragazzo dello stadio. Io ne sono stato il principale redattore, l'impaginatore, fotocopiatore e distributore allo stadio. Però mi preme ricordare che la fanzine non era firmata da me, io la scrivevo con foga, con convinzione e con l'amore e la verve dei 20 anni, fondamentalmente. Però non la firmavo, perché quella era la voce della Sud, quella era la voce della curva e doveva uscire come curva. E va detto anche che all'esterno di Montevarchi era parecchio apprezzata, tante tifoserie ci hanno conosciuto e ci hanno apprezzato leggendo quella fanzine. L'intenzione era quella di creare comunque una certa, prima di tutto un'informazione all'interno della curva su quella che è la vita della curva, poi un bagaglio di informazioni e di contenuti anche culturali, tra virgolette, che comunque potesse essere la base di una curva che dura. Ecco, questo era fondamentalmente il suo senso. Poi è un'esperienza che è durata per 4-5 anni, mi sembra, arrivando ad avere anche in certi numeri tipo 12 pagine e 8-12 pagine che ogni 2 settimane uscivano. Sinceramente era roba, ecco. Tra l'altro io dalla tua mostra fotografica ho visto una foto di un evento che mi ero totalmente dimenticato, ma che probabilmente se ne è parlato anche poco, perlomeno è rimasto un po' nella memoria. Si tratta della marcia dell'orgoglio montevarchino, che fu fatta oramai non so quante estati fa, però diverse, e che fu una serata, mi ricordo, molto molto particolare anche a livello di montevarchinità, e non avevo visto mai nessuna foto, perlomeno di quelle che si possono trovare su internet. L'ho vista la tua mostra e mi sono ricordato di quella serata, perché tra gli altri c'ero anch'io. Io c'ero a fotografarla, perché dato che ho sempre avuto l'idea di fotografare i tifosi, li ho fotografati anche nelle varie circostanze. Cioè, io li ho fotografati nelle circostanze non buone, quindi una non presenza nella curva, ma lì ai piedi della curva, e li ho fotografati anche nei momenti di gioia. E certo, la marcia dell'orgoglio rosso-blu, e mi ricordo il successo e l'entusiasmo anche dei ragazzi di Montevarchi quando entrarono specialmente davanti alla sede dell'Aquila Calcio. Fotografare si fotografa, però mancava la voce. Se ci fosse stato, diciamo, un registratore, sarebbe stato veramente divertente poter registrare quello che fu detto. Ma l'entusiasmo quando fu l'ingresso in via Roma di questi ragazzi con questi vessilli rosso-blu, striscioni eccetera, fu veramente veramente emozionante. Per ritornare poi a momenti belli, bellissimo fu anche nel 95 quando si andò a vincere il campionato a Lugo di Romagna, e io lì, preso la macchina fotografica dalla stazione di Montevarchi in treno, sono arrivato fortunatamente con il primo treno, perché eravamo 2 treni, ho aspettato il secondo treno, l'ho fotografato mentre arrivava, e poi via via tutta la marcia fino a poi all'apoteosi finale di quando si invase il campo. C'ero anch'io a invadere il campo per poter festeggiare i Montevarchi, e in quel campo c'ero anche io in effetti, e sono ricordi che sono bellissimi, ancora vivissimi nella mente, e che probabilmente mai se ne andranno, perché vivere quel tipo di emozione è una cosa unica. A chi gli succede di viverla se la porta dietro con sé.